9:01, è arrivato il momento di Pensatech, il consueto appuntamento del venerdì con le nuove tecnologie e l'innovazione. Ma se parliamo di innovazione, noi cerchiamo sempre di non perdere anche il nostro lato green, e allora cerchiamo di fare una critica questa mattina anche all'uso smodato di nuove tecnologie. La ricerca dell'ultimo modello di computer, di smartphone, di qualsiasi device elettronico, che sicuramente ci semplifica la vita, ci diverte anche, ma può causare un aumento smodato della nostra dipendenza da questi apparecchi e anche sicuramente un danno non indifferente all'ambiente. Allora andiamo a vedere qualcuno che sta cercando un approccio diverso rispetto a queste tecnologie, un approccio libero che in realtà viene da lontano, viene dal mondo hacker, del riutilizzo, del mettere mano, del vari tentativi nel cercare di avere un utilizzo creativo non solo dei software ma anche dell'elettronica. E allora questo ci porta anche a pensare nel futuro, non rinunciare, non rimanere nel passato e adattarsi al passato modello del PC, ma ci spinge anche a pensare a robot creati da noi, domotica, quindi la tecnologia collegata alla casa, che non sia appunto venduta a pacchetto chiuso ma sia da noi personalizzata. Com'è possibile? C'è qualcuno che ci crede e cerca di diffondere questo verbo? Stiamo parlando delle associazioni Off Piccina, l'associazione per il software libero, e Erlug, insieme al professore Renzo Davoli, stanno tenendo un non corso gratuito di elettronica libera, e lo trovate presso la Casa per la Pace, la Filanda di Casalecchio di Reno. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 7 febbraio alle 20:30, anche se in realtà c'è già stata una lezione zero. Ma prima di andare a vedere nel merito, proprio attraverso la voce dello stesso professore Renzo Davoli, di che cosa si tratta il corso, continuiamo il nostro ragionamento sui rifiuti elettronici comunemente conosciuti come RAE. E allora proprio di RAE ci parla Lisa Lazzarato nel suo Glossatech di oggi. R come RAE. RAE è un acronimo che sta per rifiuti, apparecchiature elettriche e elettroniche. Sono cellulari, frigoriferi, televisori, computer, ma anche giocattoli, elettrodomestici e tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici che al termine della loro vita vengono gettati e sostituiti. I RAE rappresentano una piccola parte del volume complessivo di rifiuti, ma sono particolarmente inquinanti e tossici. Contengono ad esempio clorofluorocarburi, piombo e mercurio. Inoltre possono essere in parte riciclati, con percentuali diverse a seconda del tipo di rifiuto, fornendo ferro, plastiche, alluminio, rame e altri materiali pregiati. Per questo motivo esistono dei centri di raccolta specializzati, gestiti dai comuni, oppure gli stessi rivenditori ritirano il rifiuto nel momento in cui si acquista un oggetto dello stesso tipo. Un apposito decreto, entrato in vigore nel settembre 2007, stabilisce che siano i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche a finanziare e gestire il trattamento di questi rifiuti. Esistono a questo scopo dei sistemi collettivi di produttori, in pratica dei consorzi di aziende. Si stima che ogni abitante produca circa 14 kg di RAE l'anno, una stima destinata a crescere insieme al nostro consumo di tecnologia. 14 kg di RAE l'anno, davvero la proporzione è pesante, insomma stiamo parlando veramente di peso, insomma pensiamo ai nostri telefonini, gli smartphone, i tablet, i netbook, i notebook, ormai la scelta dei device è veramente ampia e quindi aumenta anche la percentuale di quelli che si rompono e finiscono in discarica. Abbiamo visto vengono ritirati dai negozi e da aziende che si occupano proprio di smaltimento di questo tipo, c'è anche qualcuno che però vuole dargli nuova vita. E allora torniamo a parlare del non corso che si terrà a Casalecchio insieme al professor Renzo Davoli dell'Università di Bologna e presidente dell'Associazione del Software Libero d'Italia. Con lui abbiamo parlato dei contenuti del corso, ma soprattutto gli abbiamo chiesto perché un non corso. Perché le cose divertenti della vita, le cose simpatiche di solito sono non, quelle che scatenano la fantasia come l'isola che non c'è di Peter Pan. Perché non vuole essere un posto dove c'è uno che parla e gli altri che devono imparare, ma uno è solo, io faccio solo un attimo di coordinamento, vogliamo arricchirci a vicenda, veniamo con diverse esperienze, veniamo a scambiarci esperienze. Chi saranno i frequentatori del corso? Persone che già ne sanno di elettronica oppure è aperto anche ai cosiddetti profani? Vogliamo prendere chiunque abbia voglia di imparare giocando o giocare imparando, non importa la conoscenza, importa la voglia di imparare e la voglia di sperimentare. Stiamo pensando come fare, ma lo decideremo assieme. Vorremmo mettere sia dei contenuti di base che dei contenuti più elaborati, magari quelli che hanno minore esperienza possono seguire completamente i contenuti di base e poi vedere che cosa si può fare quando si sarà raggiunto un livello più elevato di conoscenza, in modo da ispirarsi ed aver voglia di continuare, questa è l'idea. Tra gli argomenti del corso leggiamo che c'è la domotica, l'automazione, sembra di parlare davvero di robot, non sono più cose relegate alle categorie del futuro, quindi alle grandi fiere, insomma arrivano nella vita quotidiana di chiunque. Assolutamente sì, e l'idea è che con il Raspberry Pi, la nostra scusa che ha consentito questo corso, questo computerino che costa 30 euro e che ha una grandissima potenzialità, è possibile per tutti sperimentare, fare le piccole applicazioni quotidiane e con un po' di pazienza riuscire a automatizzare la casa piuttosto che a fare esperimenti con l'elettronica, far funzionare un robottino o altro. Ci vuole solo voglia di giocare e tanta pazienza, perché imparare talvolta richiede anche pazienza. Vanno un po' dalla musica al gioco fino, appunto, lei diceva, all'automazione della casa. Sì, sono due macchine diverse, Arduino e Raspberry Pi, che posso dire si complementano a vicenda. Mentre l'Arduino è una piccolissima macchina per piccole applicazioni, il Raspberry Pi è un vero e proprio computer, può sostituire un personal computer a casa, navigare in rete, si può leggere la posta piuttosto che scrivere una lettera, ma al tempo stesso ci sono dei contatti, c'è una contattiera su cui si possono attaccare circuiterie esterne che si possono progettare, costruire, sperimentare e fare applicazioni col solo limite della fantasia. Nel programma è specificato tutto in salsa libera, quindi oltre a free software parliamo anche di un free hardware, cioè di libero hardware. Sì, assolutamente, cioè queste architetture sono architetture molto libere, si ha la conoscenza degli schemi elettrici e i vari progetti hanno ottenuto anche dai costruttori dei processori una tanta conoscenza sull'architettura interna dei processori, quindi si ha la possibilità con questi strumenti di avere veramente la padronanza della conoscenza che serve per realizzare le proprie applicazioni, che è utilissimo per tutte le persone per poter avere reale conoscenza, ma pensate quale prospettiva questo può dare ad aziende che possono realizzare nuove applicazioni senza vincoli economici con da fornitori di hardware o software house che forniscono sistemi di sviluppo o strutture software. Non siamo un po' troppo sommersi da questo materiale elettronico? L'atteggiamento verso il free hardware, per così dire, ha in sé anche il tema del riciclo rispetto all'elettronica usa e getta che invece siamo abituati a conoscere? Assolutamente, l'idea è che siamo sommersi da apparecchiature che ci rendono spettatori e apparecchiature chiuse, apparecchiature usa e getta che magari sono bellissime dal punto di vista dell'apparenza, ma che alla sostanza sono delle prigioni che non appena c'è la necessità di avere una funzionalità in più o c'è da sostituire una parte, sono volutamente non manutenibili né nell'hardware né nel software, in modo da creare un falso mercato di acquisto e una reale purtroppo generazione di immondizia. Invece, se si ha la conoscenza dell'hardware a tutti i livelli, si ha la conoscenza del software, è possibile riutilizzare gli apparati in nuove applicazioni quando questi diventano obsoleti o quando bisogna sostituire una parte, e quindi si ha la completa padronanza dello strumento. Voi utilizzate per coordinare tra le persone del corso un social network, perché non un social network tradizionale? Perché anche in questo caso lo strumento è libero ed è sui nostri server, non vogliamo essere dipendenti da strutture che molto spesso condizionano sia il funzionamento sia anche i diritti che ci sono sul materiale che viene divulgato. Noi vogliamo essere liberi anche nella comunicazione e negli strumenti, cioè siamo coerenti in un'idea di libertà, vogliamo far vedere che un mondo diverso è possibile nell'hardware, nel software, negli strumenti, cioè nel cloud, negli strumenti che si accedono attraverso la rete. Non c'è il pericolo di creare una nicchia chiusa? È proprio lo scopo del corso, il non crearla. Far entrare nel gioco quante più persone vogliono entrare, hanno la volontà di entrare, specialmente giovani, perché molti giovani non sanno che c'è quest'altro mondo, che è possibile avere altre possibilità rispetto a quelle che si trovano nei supermercati o nei negozi pieni di luce del centro. Il corso è fatto apposta per far vedere a tutti che non siamo una nicchia chiusa e proprio per invogliare altri a partecipare a questo gioco. Un altro mondo è possibile nel free software, nel free hardware, ma anche un'altra vita è possibile per le nostre apparecchiature elettroniche che invece molto spesso al primo malfunzionamento finiscono in discarica, finiscono recuperate nei centri RAE, come abbiamo sentito prima nel nostro Glossatech. Ma c'è qualcuno che invece sta cercando di dargli nuova vita, l'associazione Raccatta RAE, infatti si occupa di fare questa scelta ecologica e anche in fondo di buon senso sul riutilizzo delle nostre apparecchiature elettroniche. Allora noi abbiamo il telefono Cristina Carnevali che si occupa proprio dell'associazione Raccatta RAE, che si occupa appunto di questa officina. Cristina, chi sono i vostri utenti medi? Chi vi porta il computer in officina? Ciao a tutti. Buongiorno intanto. Allora, sono davvero vari, nel senso abbiamo dai ragazzi sui 15-16 anni fino a oltre 60 anni. È una cosa davvero che impegna un po' tutti. Noi diamo assistenza, i laboratori dell'Officina sono due appuntamenti mensili in cui mettiamo a disposizione la nostra conoscenza, ma anche gli attrezzi, i cacciaviti, i tester, gli alimentatori e la sede stessa, in cui tavoli e sedie su cui appoggiarsi, e per fare manutenzione al proprio computer, ma anche farli diagnostica, riuscire a capire che problemi ci sono, sia nella parte hardware, quindi la parte fisica, sia nella parte software, cioè i programmi stessi che girano sui PC. Quindi poi l'idea non è di un servizio di persone terze, ma di una vera e propria partecipazione al riutilizzo, al ridare vita al proprio strumento? Sì, guarda, allora l'associazione Raccattarae ha iniziato nel 2004 questa attività e inizialmente era strutturata in maniera diversa, nel senso continuiamo a fare anche quell'attività, si chiama Adotta un PC, e praticamente noi ritiriamo apparecchiature elettriche ed elettroniche ancora funzionanti ma insomma obsolete, che stanno quasi per oltrepassare la loro possibilità di vita, diciamo, e le raccogliamo tuttora, le aggiustiamo, installiamo sopra del software libero, quindi un sistema operativo che di cui non devi pagare i diritti d'uso, e poi le riconsegniamo a privati che ce ne fanno richiesta lì in associazione sotto compenso, cioè comunque un tariffario. Questa dinamica però creava dei problemi, nel senso che noi prendevamo questi computer di cui però non ci veniva data la storia, diciamo, i problemi tecnici di ognuno, quindi molto più lungo il testarli e l'aggiustarli, e poi li riconsegniamo a persone che però non hanno nel mezzo acquisito le conoscenze, no, per davvero poi mantenerli, allungargli la vita a questi computer, no? Perché non basta solo che vengano aggiustati una volta, molto spesso continuano a dare tanti piccoli problemini, acciacchini, e uno deve conoscere la macchina se è un po' vecchia. E allora certo, anche perché ricordiamo che se parliamo di un software libero parliamo anche di competenze, quindi anche di capacità e consapevolezza di come funziona la macchina. Sì, logicamente il software libero ti permette di conoscere meglio come funziona la macchina, perché hai una possibilità di diagnostica migliore, no? La puoi proprio interrogare e sapere che cosa sta facendo. Invece gli altri sistemi operativi, molto spesso, insomma quello più diffuso, è la macchina che domanda a te qual è l'errore, e tu dici ma è folle sta cosa, no? Invece grazie al software libero riusciamo a essere molto più efficaci. E comunque no, sfaterei il fatto che ci servano maggiori conoscenze rispetto a Windows, perché ultimamente, cioè da un po' di anni, ci sono distribuzioni di GNU Linux che sono assolutamente user friendly, nel senso sono chiunque può utilizzarle, non hanno un picco di apprendimento immane. Però appunto dicevi l'evoluzione della Officina. Esatto, l'evoluzione è che quindi in questa nostra impresa ecologica, no, di risparmio sui prodotti elettronici creati dal mondo, no, in modo che non finiscano in isola ecologica prima del tempo, allora in questa nostra impresa abbiamo pensato è meglio che le persone invece si affezionino e inizino a usarlo bene, le loro macchine che hanno già, non che vengano raccolte da noi nel momento in cui vengono cambiate per una nuova. E quindi abbiamo deciso di usare questo funzionamento, che è un po' simile a quello delle ciclofficine che qua in città a Bologna ci sono già, no? E sono già piuttosto conosciute. E i nostri ascoltatori proprio conoscono bene, direi. Immagino, infatti. E quindi è molto meglio, perché la persona arriva lì insieme al suo computer e insieme alla storia che è comune alla persona e al suo PC. Spesso arriva prima che il danno ci sia stato, perché vengono appunto a fare manutenzione, a pulire il ventolino, a mettere a posto l'alimentatore che comincia a perdere i contatti o cose simili, e quindi si appassionano alla macchina, cominciano ad aprirla, a vederla, e quindi poi sono invogliati a davvero utilizzarla fino alla fine, insomma. E poi molto spesso si tratta di conoscenze che sono già accessibili su internet, perché buona parte, anche solo per fare manutenzione, sono macchine che trovi i manuali in internet, però non c'è, cioè, c'è una certa paura dalle persone di affrontare questo mondo dell'elettronica e dell'informatica. E quindi noi facciamo un po' da agevolatori, è molto divertente perché appunto un po' da informatici riesci, cioè dalla parte di noi che siamo lì a dare una mano, è interessante perché trovi sempre problemi nuovi che stimolano la tua diciamo la creatività di riuscire a risolverli. Poi è comunque un momento sociale e si riescono a scambiare davvero delle conoscenze. Dall'altro lato le persone vengono, riescono ad avere dei benefici immediati su riuscire a aggiustare o a fare manutenzione alla macchina e scoprono un mondo diverso che è quello delle licenze sul software libero. C'è anche la possibilità di cambiare vita al proprio apparecchio elettronico, sto pensando magari ai componenti di computer che possono diventare un pezzo dei robot di cui parlavamo prima con Renzo Davoli, vi capita? Capita e in questo momento è più difficile, penso che nel futuro sarà più semplice, nel senso che come ti diceva appunto Renzo prima, il non corso sfrutterà il fatto di utilizzare degli apparecchi, dei mini computer che sono stati progettati in open hardware, cioè significa che i progetti di come è strutturato quell'oggetto sono pubblici. Sono pubblicati proprio dalle aziende che l'hanno progettato e quindi ti permettono di sapere, avendo uno schema, tutto quello che fa quella macchina. Invece sul mondo dei computer, dei cellulari, di tutte le altre apparecchi elettronici da cui veniamo adesso e da cui siamo abituati adesso, siamo schiavi, fra virgolette, di un cattivo design che è andato avanti per anni e anni e anni e che era funzionale al fatto di vendere e consumare. Cioè, per esempio, ne abbiamo esperienza tutti, no? Il fatto che ogni apparecchio ha un attacco per l'alimentatore diverso, un attacco per la tastiera all'interno diverso, un attacco video diverso, eccetera. Perché le aziende differenziavano, cercando di obbligare il consumatore a comprare da loro. E questo è, nella logica del consumismo, tra virgolette, logico purtroppo, però in quella di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e stare attenti al peso ecologico di questi oggetti è assolutamente idiota una tecnica simile. Sì, appunto, quindi creare è il fatto stesso che io devo cambiare il caricabatterie se cambio anche il mio smartphone, il mio telefono. Certo. Il problema è che non hanno pezzi interscambiabili o poca o in parte minima. Invece in un futuro dove la progettazione dell'hardware viene, non è sotto segreto industriale, ma anzi viene data, cioè le aziende la rilasciano proprio pubblicamente, in un mondo dove appunto questa progettazione è pubblica, è molto più facile creare pezzi di ricambio e quindi aggiustare questi apparecchi. Invece in questo momento ci troviamo in una fase dove è ancora molto difficile aggiustarli, insomma ti devi ingegnare per benino. Cristina, tu hai partecipato alla puntata zero degli incontri del non corso? Sì, anche noi come associazione Raccatterae lo promuoviamo assolutamente. Ci puoi raccontare qualcosa dell'ambiente che si crea in questi appuntamenti? Certo, è un ambiente creativo, ognuno porta dei progetti. Adesso la puntata zero è stata anche, come ti diceva Renzo, il non corso è aperto anche ai principianti, quindi questa puntata zero ha anche un po' spiegato tutte queste cose di cui abbiamo parlato adesso. Però è l'interazione che fa il valore aggiunto, diciamo, non è il fatto di avere delle lezioni frontali, perché non sono lezioni frontali, è il fatto che tutta questa conoscenza sul free software, l'open hardware e l'elettronica in parte è disponibile in internet, quindi molte delle persone sono autodidatte e vengono lì con dei progetti. Poi, avendo la possibilità dell'incontro, intorno ai progetti si creano dei gruppi di lavoro che si aiutano poi a vicenda, che risolvono i problemi. Poi appunto uno magari ha un progetto ma non ha le capacità o tutta la conoscenza per arrivarci in fondo, però insomma, facendosi aiutare lo si porta avanti. È alla portata di tutti. Grazie Cristina Carnevali dell'associazione Raccattarae, buongiorno. Ci vuoi ricordare magari i vostri contatti prima di salutarci? Sì, allora trovate sia le informazioni del non corso sia le informazioni sugli incontri che organizziamo in officina.net. Grazie, a presto. A presto, buona giornata, ciao. Ciao. E allora, visto che abbiamo parlato sia con Cristina che con il professor Davoli di Raspberry Pi e di Arduino, sono andata a cercare online qualche esempio di cosa si può fare con questa scheda, questa piattaforma open source di prototipazione elettronica. Per esempio, si può costruire un rilevatore di pH per i liquidi, oppure si può costruire un ombrello che suona con le gocce della pioggia, e ancora si può costruire un'arpa elettronica in cui appunto questi laser vengono sfiorati e suonano come se fossero i fili di un'arpa. E ancora vedo sempre sul sito di wired.it un particolare etilometro in cui è possibile calcolare quello che è il tasso alcolico proprio attraverso un comune microfono, un microfono gelato come quello che si può utilizzare anche qui in radio. Veramente Arduino, Raspberry Pi, insomma, sono l'apertura anche al mondo della robotica, della domotica, come ci diceva Renzo Davoli, alla portata di chiunque, ma soprattutto anche alla creatività di chiunque. Sono le 9:28 minuti, questo appuntamento con Pensatech termina qui, a me non resta che salutare. Vi ricordo anche che sul nostro sito rcdc.it nella giornata di oggi troverete la puntata di questa mattina e anche tutte le interviste e gli appuntamenti di cui abbiamo parlato.